In Italia a che punto siamo? Siamo un paese arretrato da questo punto di vista rispetto ad altri o no? Beh, no, arretrato no, direi di no, anche perché nelle ultime due finanziarie sono state incentivate operazioni economiche per l'applicazione di impiantistiche legate alla riduzione dei consumi energetici. Quindi no, arretrati no, direi che su alcuni strumenti legislativi siamo anche all'avanguardia, perché abbiamo questo conto energia che dà un contributo molto importante a chi produce energia elettrica dai pannelli fotovoltaici, no? Quindi da questo punto di vista siamo avanti. Sulla pratica in realtà siamo un po' più indietro perché la nostra è una macchina troppo lenta, ecco, quindi operazioni importanti sul territorio, sia residenziale che per uffici, o sulle politiche dei comuni, sulla sostenibilità, devo dire che siamo un po' indietro. Ecco. In che senso lei parla di una macchina lenta? Lenta da che punto di vista? Ma lenta nel sistema decisionale, nel senso che nelle città italiane è stato fatto veramente poco, per esempio sulla mobilità sostenibile. Non sono state prese delle iniziative veramente, sì, a Milano per esempio è stata fatta questo sistema della riduzione delle entrate, a Londra è già anni che esiste, quindi diciamo arriviamo sempre un pochettino in ritardo. Come si inserisce l'architettura in questo discorso? Ma l'architettura gioca un ruolo molto importante perché, come dicevo prima, il 50% delle energie vengono consumate dai nostri edifici, sia per fare il caldo che per fare il freddo, o perché sono isolati male, o perché non hanno nessuna, non sono nati per risparmiare energia. Allora un problema legato, per esempio, all'inquinamento non è solo un problema delle particelle piccole, come si chiamano, delle automobili, è anche tutto il sistema di dispersione energetica che hanno gli edifici, le caldaie, tutto un sistema che dà dei contributi negativi molto importanti, quindi in realtà si potrebbero fare delle azioni molto importanti. Oggi esistono dei prodotti sul mercato straordinari. Io vengo da Parigi, proprio ieri ero a Parigi, a questa grande fiera sui sistemi di climatizzazione. Oggi vendono delle caldaie di microcogenerazione, per cui uno in casa fa il caldo e il freddo e fa anche un po' di elettricità, fa un kilowatt, no? Con emissioni ridottissime. Ecco, allora, incentivare il meccanismo di questi sistemi vuol dire che nel tempo le nostre città respireranno meglio. Ci vuole da una parte una visione. Io credo che il grande tema oggi che la politica deve affrontare è quella di avere una visione. Quale città noi dobbiamo lasciare nel futuro, no? Le abbiamo ereditate, bellissime, straordinarie. Le abbiamo riempite di macchine, di caos. Ora, cosa lasciamo noi? Che cosa vogliamo fare? Allora, da questo punto di vista manca ancora una visione in grande scala, quindi questo è un lavoro da fare. E dall'altra, ecco, quindi la visione, incentivare l'uso pubblico della città, che è anche un fatto straordinario, perché andare con i mezzi pubblici vuol dire anche avere un rapporto con le persone invece che stare chiusi dentro una macchina, no? Quindi questo deve essere un sistema molto rigoroso. Dall'altra parte un sistema di incentivi, ecco, che in qualche modo diano la possibilità agli utenti di fare dei cambiamenti. Ecco, nella finanziaria c'erano 500 milioni di euro destinati a finanziare chi avrebbe fatto dei cambiamenti. Ecco, noi dobbiamo promuovere e nello stesso tempo essere molto rigidi.